si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno, buon sabato cari ascoltatori e ben ritrovati con Si può fare del weekend, il sabato e la domenica mattina. Staremo insieme oggi fino alle 10 di nuovo, dopo la lunga pausa per quanto riguarda il weekend estiva, dopo un mese d'agosto in cui abbiamo tenuto compagnia invece la sera dalle 18 alle 20:30. Allora, eccoci qua di nuovo insieme con anche con Giorgio De Luca e Andrea Piana, che sono autori e redattori insieme a me di questo programma. Stamattina in regia con Carmelo Lucella. Ciao Carmelo, buongiorno, ben ritrovato anche a te. I nostri contatti, se volete interagire con noi subito in tempo reale, l'account Twitter del programma, ve lo ricordo, è @sipuofare24, il mio @AleMaurizi. Siamo anche su Facebook, Si può fare _radio24. Più avanti, dopo il giornale radio delle 8, apriremo anche il numero verde per i vostri interventi. Vi dico subito che parleremo anche dello sblocca Italia. C'è una norma ancora da decifrare, a dire la verità, perché lo sblocca Italia ancora non è stato pubblicato in Gazzetta, che riguarda incentivi fiscali a chi recupera gli spazi urbani. È giusto che paghi più tasse chi non ha comportamenti virtuosi e meno tasse chi ha comportamenti invece virtuosi? Cercheremo di capirlo, se questa è una buona notizia, più avanti. Poi naturalmente ci sarà anche Carlo Gabardini, non oggi perché è impegnato a un appuntamento di cui parleremo più avanti, ma dalle prossime puntate torna insieme a noi Carlo. Adesso andiamo ad iniziare. And now the good news. E come sempre, prima di andare sulle prime pagine dei giornali di oggi per una breve rassegna stampa, una buona notizia per iniziare bene il weekend. Allora, il Politecnico di Bari, come il MIT, premiato con il Google Award. Che succede? Che l'Università Politecnico di Bari, come la storica Università di Harvard, come il prestigioso MIT, Massachusetts Institute of Technology, nella categoria networking, addirittura davanti a Stanford, Google ha infatti premiato l'Università Barese e assegnato a un team di studiosi di questa città il Google Research Award 2014, un riconoscimento ai progetti di ricerca più interessanti di tutto il mondo, sostenuto con un finanziamento complessivo di $1 milione. Bella notizia per questo team di professori, di universitari, di ricercatori baresi che stanno lavorando. Non vi dico a che cosa perché è complicatissimo da raccontarlo, ma insomma è una cosa importante che fa lustro alla nostra università. Parliamo sempre di fuga di cervelli, per una volta i cervelli stanno in Italia, in Puglia. Viva la Puglia, a Bari, vai! Oh, ma vediamo invece di che cosa si occupano i giornali di oggi. Braccio di ferro il primo tra la nuova commissione Renzi, sempre sulla questione dei conti, ma ci sono dei commenti un po' sconcertati sui giornali di oggi, perché si sostiene in sostanza che la nuova commissione, come quella precedente, non ha intenzione di concedere molto a nessuno. Poi il stallo per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale, uno stallo tutto politico. E poi anche i guai con la giustizia e il PD. Vediamo, Corriere della Sera, crescita, primo duello di Renzi con la nuova Commissione Europea. Basta lezioni, questo è Renzi. Katainen, il commissario, uno dei commissari, insomma, replica: noi interpreti, non maestri. Nel giorno del summit milanese dell'Eurogruppo, duellano a distanza Renzi e il commissario agli affari economici Katainen. Il Premier assicura che l'Italia rispetterà il vincolo del 3% nel rapporto deficit-PIL. Dall'Europa dunque non ci aspettiamo lezioni, ha detto Renzi, ma i 300 miliardi di investimenti. Replica il falco finlandese, ormai è già diventato il falco finlandese, il falco del rigore, dice: non siamo maestri, stiamo solo interpretando quanto i paesi stiano rispettando i loro impegni, e siamo alle solite, chissà per quanto andrà avanti questa tiritera. sempre sul Corriere, consulta, dicevamo, no? Il giorno del caos, Catricalà ritiro della candidatura, Forza Italia fuori controllo. Chissà quanti ci hanno capito qualche cosa in questa vicenda, nessuno credo, anche Carmelo in regia dice no. E insomma, stanno in Parlamento, in seduta comune, Camera e Senato, deve eleggere questi benedetti giudici della Corte Costituzionale, è sempre stata una questione di accordi politici, ancora è così. Quando i partiti sono in fibrillazione, questo voto non arriva. Dice Catricalà, è scelto a suo tempo da PDL, da Forza Italia, anche come numero uno di una importante authority, adesso appunto candidato giudice della Corte Costituzionale, credevo di essere una soluzione, così è intollerabile. E se ne va, insomma, sbattendo la porta, ritira la candidatura, perché Forza Italia è divisa, vorrebbero alcuni membri di questo partito un candidato più vicino alle loro posizioni. Anche nel PD barcolla la candidatura di Violante, apprendiamo, ci sarebbero altri candidati dietro la porta, Barbera e Ceccanti. E questo è anche questo il capitolo giudici. Poi c'è un'altra notizia che riguarda la giustizia e riguarda l'ENI soprattutto, e questa mega tangente che l'ENI avrebbe pagato per aggiudicarsi gli appalti sull'esplorazione del petrolio. Il premier che difende però Descalzi dice lo risceglierei, i PM che spiegano ecco dove è finita la mega tangente dell'ENI. Vediamo un po' cosa scrive all'interno il Corriere. Il tweet di Renzi è questo: sono felice di avere scelto Claudio Descalzi come numero uno di ENI, potessi lo rifarei domattina, io rispetto le indagini e aspetto le sentenze. Come dire, Renzi si dice in qualche modo sicuro, o spera quantomeno, che l'inchiesta poi non coinvolga e non porti Descalzi verso una condanna. I PM cosa dicono? Che ci sono oltre 500 milioni di un pagati a un nigeriano legato ai politici africani di alto livello, 193 sono stati sequestrati a Londra in Svizzera, altri sono andati a persone che devono ancora essere identificate in altri paesi. Sono tutti i flussi di denaro che i PM considerano originati appunto dalle tangenti dell'ENI pagate in Nigeria. In sostanza cosa succede? Che l'ENI pagherebbe queste tangenti a questi mediatori nigeriani, il popolo nigeriano, lo Stato nigeriano resta con un pugno di mosche e l'appalto per il petrolio se lo pappano tutte le compagnie occidentali. La difesa dell'ENI è questa: nessun intermediario, nessun pagamento alla società nigeriana, ma solo al governo, alla società nigeriana Malabu, ma solo al governo della Nigeria, quindi tutto regolare. Va bene, anche questa è una vicenda che avrà degli sviluppi sicuramente. Notizia del Corriere: Berlusconi invita i poliziotti a casa sua, Palazzo Grazioli, vi aiuto io. L'incontro, scrive Fiorella Sarzanini, è previsto il 17 settembre, mercoledì prossimo. I rappresentanti delle forze dell'ordine e delle forze armate, in polemica con il governo per il tetto agli stipendi, saranno ricevuti da Silvio Berlusconi, la moxa dell'ex premier che spiazza Palazzo Chigi. Un'occhiata, poi entreremo più nel dettaglio anche agli altri giornali naturalmente. Repubblica, riforme, scatta il controllo europeo sull'Italia, subito lavoro, giustizia e burocrazia, queste le richieste europee. Poi c'è il commento sulla nuova posizione di Matteo Renzi in tema di giustizia: Emilia e Eni, il premier contro i giudici. Cambio di stagione, il commento di Claudio Tito: è in atto una sorta di mutazione genetica, una metamorfosi, o meglio una specie di ritorno alle origini sul terreno più conflittuale degli ultimi 20 anni, la giustizia. Il PD, il centrosinistra italiano, abbandona quella che sinteticamente veniva definita la linea giustizialista e si presenta adesso come il principale soggetto garantista. Cosa si riferisce Claudio Tito? Alla battaglia di questi giorni tra Renzi e i magistrati. Il taglio delle ferie per le toghe, la riforma promossa senza consultare l'Associazione Nazionale Magistrati, la scelta della promozione dell'avvocato Legnini, che non ha particolari legami con i giudici, ai vertici del CSM, l'organo di autogoverno dei magistrati, e ancora il rifiuto di condizionare le candidature in Emilia ai provvedimenti dei PM, con la vicenda, ricorderete, Richetti e Bonacini, la difesa dell'amministratore delegato dell'ENI, abbiamo appena parlato, coinvolto in un'inchiesta su presunte tangenti. poi il distacco anche con cui i democratici hanno assistito ai capitoli processuali ultimi di Berlusconi. Ecco, tutti questi elementi sono elementi di un vero e proprio cambio di stagione. Il primato, scrive Claudio Tito, della politica rispetto alla giustizia, che invece in passato, negli ultimi 20 anni, secondo questo commento, il PD non avrebbe avuto, avrebbe avuto sudditanza nei confronti della giustizia. Sole 24 ore, ridurre le tasse sul lavoro, ecco le priorità dell'Eurogruppo. Un piccolo approfondimento su questo: alla ricerca del giusto mix di politiche economiche, l'Eurozona individua nel taglio delle tasse sul lavoro la via per stimolare consumi, occupazione e competitività. Questo però deve accompagnarsi alle solite riforme, è il messaggio emerso all'Eurogruppo di ieri a Milano. Ministro Padoan ha detto il deficit sarà sopra il 2,6%, ma entro i limiti dell'Unione Europea. A qualche altro titolo velocemente, Libero: Renzi ha una sola idea, votare, elezioni nella primavera 2015? Questo è l'interrogativo che si pone il quotidiano Libero. Invece il Manifesto: che bel paese, titola, e c'è un pozzo di petrolio nella foto. Il governo inaugura la stagione delle grandi opere, dando il via libera al mega gasdotto TAP nelle spiagge del Salento. Il Ministero dei Beni Culturali boccia il progetto, ma il ministro dell'Ambiente Galletti firma il decreto contestato dalla Regione Puglia e dai sindaci del territorio. Vedremo più avanti. Il Giornale, che è con la foto di Massimiliano alla torre, torna a casa, e uno dice, e ora teniamocelo. Facciamo una breve pausa, rassegna stampa europea, giornale radio, e poi dopo, tra un po', insomma, dopo le 8:15 circa, torniamo. A più tardi, a dopo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E buongiorno di nuovo, cari ascoltatori. 8:17 minuti, di nuovo in diretta con Si può fare, di nuovo nella versione weekend. Il buongiorno di Radio 24, il sabato dalle 7:30 alle 10, la domenica mattina dalle 8:30 alle 11. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Ai nostri contatti invece, se volete interagire con noi subito in tempo reale, su Twitter l'account del programma, ve lo ricordo, è @ Si può fare 24, mio @ Le Maurizi. Siamo anche su Facebook, Si può fare Radio 24. Torneremo normalmente anche insieme a Carlo Gabardini, che oggi non c'è per un impegno di cui parleremo tra poco, più avanti, ma insomma la squadra è sempre quella: Andrea Piana, Giorgio De Luca e stamattina Carmelo Lauricella in regia. Allora, cominceremo, ve lo dico subito, parlando di Sblocca Italia. C'è una norma che prevede incentivi fiscali ai cittadini che recuperano spazi urbani e fanno la manutenzione anche di questi spazi pubblici. È giusto che il fisco sia incentivante, cioè meno tasse a chi ha comportamenti virtuosi, più tasse invece a chi non ha comportamenti virtuosi. 800 24 00 24. Oggi però vi vogliamo anche ingaggiare con il nostro gioco. Mettiamo in palio i biglietti per la mostra Fai Ice Stasis all'origine delle sensazioni, Robert Irwin, Jane Starr e la Villa Panza a Varese. Però dovete chiamarci per dirci questo: siccome si apre la settimana europea della mobilità sostenibile, auto elettriche, mezzi pubblici, car sharing e bicicletta. La bicicletta è il mezzo più sostenibile che ci sia, naturalmente noi siamo grandi fautori di tutto questo, fa bene al traffico, fa bene all'ambiente, fa bene anche a noi stessi, però anche i ciclisti, insomma, devono un po' migliorare a volte il loro modo di stare in mezzo alla strada. Vi chiediamo oggi di dirci, facciamo un po' pelo e contropelo ai ciclisti, tutti i comportamenti che non si devono assolutamente tenere in strada con la bicicletta. Non so, andare in due, no? Uno affiancato all'altro, oppure andare senza luci la sera. 800 24 00 24, cogliamo l'occasione per fare pelo e contropelo ai ciclisti, anche se naturalmente sappiamo che i ciclisti fanno, ogni ciclista in più è una macchina in meno, e questa è una buona notizia, però insomma mettiamoci in linea. Allora, adesso invece riprendiamo a dare un'occhiata un'occhiata ai giornali di oggi, completiamo la rassegna stampa che abbiamo iniziato nella prima parte del programma alle 7.35. Corriere della Sera, titolo principale, consulta al giorno del caos, l'abbiamo già letto, Catricalà ritira la candidatura, Forza Italia è fuori controllo, c'è stallo insomma per la nomina dei nuovi giudici della Corte Costituzionale, ormai da giorni anche Violante del PD è in bilico, spuntano fuori nuovi nomi. L'altro titolo è sul questioni europee, crescita, primo duello di Renzi con la nuova Commissione europea, basta lezioni, così dice Renzi, e invece il commissario Katainen che replica: noi siamo solo interpreti, non maestri. C'è una notizia sul Corriere a proposito della spending review, intanto l'addio di Cottarelli, che adesso è stato annunciato anche da lui ufficialmente, lascio a fine ottobre, sono a termine del mio mandato ma continuerò fino alla fine di ottobre, così Cottarelli ieri al meeting di Confesercenti ha annunciato che lascerà l'incarico di commissario alla spending review, seguirò fino alla fine la legge di stabilità, è importante che in seguito il lavoro sia continuato e ce lo auguriamo tutti noi. La questione dei ticket sanitari, della spesa sanitaria, dei famosi 3 miliardi di euro ventilati di spesa, che però le regioni non ne vogliono sentir parlare, alla fine, questo scrive il Corriere, i famosi 3 miliardi di euro di risparmi che il governo vuol tirar fuori dalla sanità dovrebbero arrivare con una ricetta che prescrive due medicine. La prima è il rafforzamento anche nel settore sanitario della Consip, cioè la società che si occupa degli acquisti della pubblica amministrazione. Quindi centrale unica degli acquisti, risparmio negli acquisti delle siringhe, dei medicinali eccetera. La seconda ricetta è la riforma del ticket sanitario, che dovrebbe mettere un freno alla crescita delle prestazioni gratuite con la possibile eliminazione delle esenzioni per alcune patologie per le fasce più ricche della popolazione. Dunque, per non fare tagli lineari sulla sanità che le regioni osteggiano moltissimo, si dovrebbe procedere con la centrale unica degli acquisti e il taglio delle prestazioni gratuite per le fasce di reddito più ricche. Il commento di Sergio Rizzo, i veri nemici dei costi standard. Scrive Rizzo, leggiamo brevemente perché è interessante, gli esperti internazionali concordano, la nostra sanità non è poi così malaccio, almeno in rapporto alla spesa, anche se questo, di scrive Rizzo, può sembrare paradossale. Il fatto è che in Italia non c'è una sanità pubblica, ce ne sono 20, è il prodotto di un regionalismo assurdo che arriva a garantire diritti fondamentali diversi a cittadini di uno stesso Stato che pagano le medesime imposte. Ci sono situazioni come il Trentino, dove il servizio sanitario rimborsa le spese odontoiatriche ai giovani fino a 18 anni, o in Calabria, dove ci sono casi di reparti chiusi per ragioni sanitarie e igieniche. E questa è l'assurda diversa situazione fotografata appunto per quanto riguarda le diverse regioni italiane. Alla fine di tutto questo ragionamento, dice Rizzo, i veri nemici dei costi standard che dovrebbero dare una risposta a questo spreco, che sono in via di applicazione ma fino ad ora con risultati molto molto molto blandi, scarsi, sono proprio le regioni. Si metterebbe pesantemente in discussione il principio di autonomia regionale, che talvolta è solo autonomia dello spreco e del disservizio, per di più nel settore dove girano i soldi veri. Ben oltre metà dei bilanci delle regioni infatti sono coinvolti nelle spese sanitarie, è lì che bisogna tagliare, magari non con tagli lineari ma con diminuzione degli sprechi, come ha detto Renzi. Tra l'altro noi sentiremo più avanti, verso 9.15, il governatore della Toscana Rossi, anche proprio su questa questione qua, per vedere se le rassicurazioni arrivate nelle ultime ore vanno bene, oppure se le regioni continuano a piangere da questo punto di vista. Hanno ragione anche loro, perché non è che si possono fare tagli lineari sulla sanità, ma risparmi, Dio santo, questo sì, assolutamente, se no dove andiamo a finire? Altra notizia, Repubblica, il Movimento 5 Stelle ottiene la piazza del Circo Massimo. Vi ricordate la questione che era stata negato il Circo Massimo alla festa Italia 5 Stelle del 10, l'11 e il 12 ottobre? Bene, ieri il Comune di Roma ha dato il via libera, ha concesso l'area a Beppe Grillo e ai suoi militanti per una 3 giorni di manifestazioni, a condizioni che ci sia divieto di ristorazione e somministrazione e la garanzia che verrà preservata il decoro dell'area archeologica. Ora, concerto dei Rolling Stones, c'erano bottiglie di plastica da tutte le parti, anche credo si sia mangiato abbondantemente. Al raduno del Movimento 5 Stelle no, per questioni di decoro. Bah, chissà perché, due pesi e due misure a Comune di Roma per quanto riguarda il Circo Massimo. La Stampa fa un commento, oltre ai soliti titoli di cui abbiamo già parlato, su Danizza: orse e lupi, in Italia non c'è spazio per la natura. Dietro il caso del Trentino, la mancanza di cultura dell'ambiente nel nostro paese. Ferdinando Boero. Ieri un altro commento di Folco Quillici sul Messaggero, però diceva: attenzione, perché tutta questa indignazione animalista, ambientalista va un po' presa con le molle, perché tutti vogliamo sicuramente, che è una buona notizia, i monti ripopolati degli orsi e anche dei lupi, con i lupi, però bisogna fare attenzione, ci vuole buon senso, perché altrimenti si va a sbattere. Diceva Folco Quillici, ricordando quando suo zio le ricordava i tempi in cui l'orso popolava normalmente i boschi e le montagne, magari si mangiava le pecore di qualche pastore e il pastore sparava a morte all'orso, cosa che succedeva normalmente anni fa. E diceva lo zio di Folco Quillici: quell'orso aveva ragione a cercare di sfamarsi mangiando la pecora, ma anche il pastore non aveva torto, come la mettiamo? Quindi nessuna crudeltà gratuita sugli animali, ma insomma anche l'uomo è un animale, e quando l'orso va dove non deve andare, l'uomo fa quello che deve fare. Allora, se risentiamo un pezzettino in cui l'assessore all'ambiente del Trentino, Mauro Gilmozzi, intervenendo a Si può fare estate, aveva specificato proprio questo concetto, specificando che Danizza era monitorata perché era un animale che era fuori controllo, quindi nessun accanimento. Sentiamo. Allora, la provincia di Trento è 15 anni che gestisce, ed è l'unica regione italiana che lo ha fatto, sì, il progetto Life Ursus. Il progetto Life Ursus è un progetto europeo, e con questo progetto noi abbiamo cominciato con una popolazione di 9 orsi che in 15 anni sono diventati più di 55 orsi. Ora, in questi 15 anni la provincia di Trento è stata attenta, li ha monitorati, ha messo i radiocollari, sì, ha firmato e ha costruito con il Ministero dell'Ambiente e con l'Europa dei protocolli. Va bene, protocolli che questi protocolli li ha firmati, sì, anche la regione Lombardia. Poi cosa è successo con l'orsa Danizza? Scusi, perché questo protocolli dicono una cosa molto semplice, che gli orsi, come altri animali, possono essere pericolosi o possono essere problematici, e in caso di problematicità o in caso di pericolosità il protocollo prevede la cattura dell'animale. Questo animale è un animale che ha fatto un primo attacco 3 anni fa, è arrivato vicino alla persona e poi se n'è andata. Sì. Ne ha fatto un secondo 2 anni fa, è arrivata fino addosso alle persone e poi con una bastonata è scappata. Si sa che in tutto il mondo dove ci sono orsi, un 3-4% della popolazione degli orsi presenta queste caratteristiche, e bisogna essere pronti per intervenire, perché su queste montagne, no, ci vivono anche gli uomini, e quindi dobbiamo avere attenzione anche per loro. 800 24 00 24, già aperto il numero verde per intervenire in diretta anche oggi. Ancora qualche titolo velocemente sui giornali di oggi. Che bel paese, il Manifesto si occupa c'è una foto delle trivellazioni di petrolio, della vicenda del TAP in Salento. Contro il parere del Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell'Ambiente firma il decreto per il TAP, l'opera che ricade in un territorio protetto paesaggisticamente nel Salento, un tunnel sotto massicci corallini. È durata poco meno di 24 ore la speranza dei pugliesi di stoppare il progetto, perché dopo che Vendola aveva annunciato la notizia del parere negativo del Ministero dei Beni Culturali, è arrivata quella del parere positivo del Ministro dell'Ambiente Galletti. Adesso parte l'iter di tutte le autorizzazioni e la conferenza dei servizi, che dovrà decidere insieme anche alla Regione Puglia, che però, anche se è contraria, ha solo un parere consultivo per l'autorizzazione di questa importante opera, che però appunto passa in una zona super turistica sotto anche massicci corallini. Il Giornale e è uno. E ora teniamocelo. Il Marò, la torre, torna a casa. L'India ci presta il fuciliere malato per 4 mesi. Non è una vittoria, ma almeno stavolta non ripetiamo l'errore di rispedirlo in mani nemiche. Così il giornale, il Fatto Quotidiano invece scrive così: anche Renzi fa regali al Vaticano. Perché? Che succede? Dice il Fatto: oggi Renzi non sarà col Papa al Sacrario di Re di Puglia in Friuli, ma per il centenario dello scoppio della guerra, grande guerra. A disdetto sarà in Puglia per un giro istituzionale. Francesco però non se la prenderà, non solo perché è un uomo buono, ma anche perché il Vaticano non ha proprio niente di cui dolersi col giovane premier italiano. Che succede? La vicenda è quella dell'8 per mille. Non solo il governo Renzi non prende neanche in considerazione di modificare il meccanismo truffaldino con cui la CE incassa 3 volte di più di quanto i cittadini le destinano direttamente, la famosa divisione proporzionale dell'inoptato, ma ora vuole regalare al Vaticano pure un pezzo dei soldi lasciati allo Stato dai contribuenti. Cioè, che succede? La finanziaria di Letta stabiliva che tra i beneficiari dell'8 per mille lasciato all'erario dai cittadini ci fosse anche l'edilizia scolastica. Il 1 settembre però, quando alla Camera è arrivato il decreto attuativo, c'era una piccola modifica: i soldi andranno alle scuole di proprietà pubblica dello Stato, ma anche degli enti territoriali e del fondo edifici di culto, dove ci stanno anche le scuole private della Chiesa. Cioè ci ritroveremo con questo, con le scuole private che beneficeranno dei soldi dell'8 per mille dello Stato, senza che ci sia un'indicazione dei cittadini. Tra le proteste per ora isolate, solitarie, del Movimento 5 Stelle, così scrive il Fatto Quotidiano. Di una notizia si incarica di ricordarci anche il Sole 24 Ore, perché il decreto legge sblocca Italia è stato firmato ieri dal Capo dello Stato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore oggi, a 15 giorni dall'approvazione in Consiglio dei Ministri. Ci sono tante norme sui cantieri, sull'edilizia. Lupi ha detto che è un provvedimento ponte verso la legge di stabilità, dove dovrebbe essere confermato il bonus del 50% per le ristrutturazioni delle case, insomma, e anche per la manutenzione straordinaria, quel famoso bonus del 50%. Poi c'è un provvedimento anche sulle deroghe al patto di stabilità per quanto riguarda i comuni: sono 550 milioni per investimenti infrastrutturali. Anche di questo ci occupiamo tra poco, perché c'è una norma dello Sblocca Italia che prevede incentivi fiscali per i cittadini e le associazioni che si prendono cura degli spazi urbani, degli spazi pubblici. È giusto che il fisco sia più leggero con chi ha comportamenti virtuosi. 800 24 00 24, ne parliamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Quella dell'istinto razionale che mi spinge a commentare, a sottotitolare quel che vedo a cui non credo. Usando il rap interferisco e non mi siedo e cedo là dove intravedo uno spazio libero d'azione per fare informazione, incominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un homeboy e faccio la mia cosa. E faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa. Perché nella casa faccio la mia cosa nella casa faccio la mia. Anche loro vogliono fare qualcosa, ma non nella casa, negli spazi di edilizia pubblica abbandonata. Può sembrare poca cosa, ma non è così. Pensate a quanta parte di PIL si potrebbe recuperare se si mettesse a nuovo uso tutta l'edilizia che c'è abbandonata. È una cosa pazzesca, una statistica che andrebbe sicuramente fatta. C'è una piccola norma nello Sblocca Italia appena approvato, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che prevede incentivi fiscali a chi recupera piccoli spazi cittadini. Intanto loro sono quelli dell'associazione Cittadinanza Attiva, che ha un progetto proprio su questo che si chiama Disponibile. Salutiamo Annalisa Mandorino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vice segretario generale di Cittadinanza Attiva, in occasione della vostra festa qualche tempo fa, Spreco Zero, SprecaPO, insomma non so come l'avete... SprecaPO. SprecaPO, avete lanciato questa iniziativa che si chiama disponibile che riguarda proprio questo tema, cioè il recupero degli spazi pubblici abbandonati. Di che si tratta? Esatto, tutto è cominciato il 2, il 3 e il 4 maggio scorsi a Spoleto. Abbiamo realizzato la prima edizione di questa festa Spreca PAO, parlando di lotta agli sprechi in modo trasversale, perché noi ci occupiamo di sprechi in tante cose, ma focalizzando soprattutto la nostra attenzione su tre ambiti: il cibo, la salute e poi il paesaggio, l'ambiente. E partendo dal presupposto che per lottare contro gli sprechi bisogna sicuramente indicarli, parlarne, ma anche attivarsi in certo. prima persona da subito. E proprio per questo abbiamo lanciato con questo slogan "Attiviamoci subito", tra le altre cose, questa campagna disponibile. La campagna disponibile parte dalla osservazione che molta parte del nostro patrimonio immobiliare, spazi, edifici pubblici e privati, spazi infrastrutturali, spazi agricoli anche vicini alle città, sono di fatto inutilizzati. Certo, basta guardarsi intorno, no? Ognuno di noi nella propria strada. Case coloniche, case campaniere, ovunque. Stazioni ferroviarie, centrali elettriche, edifici, ospedali, aree industriali, insomma si potrebbe fare un lunghissimo elenco purtroppo di decine di milioni di metri cubi costruiti e poi di fatto inutilizzati. E tenendo conto che l'Italia è uno dei paesi che ha i metri quadrati di edifici, di terreni edificati pro capite più alto in Europa. Ed è uno spreco intollerabile, perché sono costi di manutenzione per chi deve manutenere, per esempio se sono edifici pubblici, è degrado per chi vive in quelle zone sicuramente, e sono spazi sottratti a chi invece ha delle idee, delle possibilità, vuol fare delle attività. E qui nasce appunto il vostro progetto. Sì, perché ci sono legati a questi edifici abbandonati, a queste aree abbandonate, infinite possibilità di tipo appunto economico, come si diceva, di tipo ambientale anche, perché pensiamo che per costruire questi edifici c'è voluta tanta energia che già c'è. Certo, sì, però mi dica per esempio quali sono i progetti che stanno venendo fuori, perché voi chiamate a raccolta tutte quelle persone, quelle associazioni, quei cittadini, quegli enti locali che stanno facendo progetti proprio per ripopolare questi spazi di edilizia pubblica abbandonati. State raccogliendo un po' di cose anche per sostenerle. Esatto, la nostra idea è proprio di fare un censimento, è in questo che consiste la prima fase del progetto, perché ci siamo resi conto che ci sono tante realtà che operano su queste cose già, dal WWF Italia, Salviamo il Paesaggio, Spazi Indecisi, Bollenti Spiriti come progetto delle istituzioni pugliesi, ma anche ovviamente singoli cittadini, sì. comitati di cittadini che si... Sì. organizzano per salvare questi beni, e la nostra idea è proprio quella di fare un censimento, perché ci siamo accorti che non esiste un censimento sistematico di questi edifici, di mettere in rete tutti questi soggetti, sì. perché ovviamente si tratta di uno sforzo potenzialmente... Ecco, ma facciamo qualche esempio però, così per rendere concreto, perché a me viene in mente il classico centro sociale, no? Che lo spazio occupato, c'è un edificio abbandonato e questa era la soluzione negli anni 90, poi c'è stato tutto un'evoluzione, per esempio ci sono comuni che adesso hanno dato la disponibilità ad associazioni, sì. si sono fatti progetti. Voi che tipo di realtà avete monitorato? Guardi, noi ne abbiamo monitorate, stiamo cominciando a monitorarne una serie molto diverse. Faccio questo esempio di Venezia, dove addirittura un'isola intera il comune voleva affidarla a dei privati, e i cittadini si sono, ad un costo irrisorio ovviamente, i cittadini si sono organizzati e hanno in prima persona partecipato al bando per provare a recuperare quest'isola e metterla. Certo. Certo, l'isola di Poveglia, ne abbiamo parlato anche noi, una storia molto avvincente. Esatto. Poi? Per esempio l'eremo di Santo Spirito in Abruzzo, che insieme con l'associazione Italia Nostra è stato e viene tuttora gestito dal comune come ovviamente spazio culturale aperto a tutti. In Puglia e anche per esempio nelle zone della criminalità una serie di spazi che sono stati sottratti e poi vengono riutilizzati, stazioni abbandonate che sono state prese da giovani che si sono organizzati in cooperative e che li hanno trasformati in spazi aperti a tutti. Insomma, stiamo monitorando tutta una serie di esempi, sì, di cui poi parleremo anche. Tra l'altro noi vogliamo lanciare una campagna proprio anche qui a Radio 24, Si può fare, vogliamo accompagnarvi in questa vostra iniziativa e ogni settimana, adesso vedremo se il sabato o la domenica, torneremo a raccontare uno di questi progetti insieme a voi, proprio in modo da dare luce, da dare spazio a questa cosa importantissima del recupero degli spazi pubblici di edilizia, soprattutto abbandonati, che è una cosa intollerabile. Le voglio chiedere velocissimamente due cose in chiusura. Prima di tutto, come fanno i progetti che si vogliono candidare a in qualche modo ad aderire, a essere monitorati? Si va su un sito, dove si deve andare? Sì, esatto, noi renderemo e metteremo online un sito dove è possibile censire questi progetti con una scheda ovviamente già definita in cui è possibile fotografarli, sì. Indicare anche la destinazione d'uso che se ne vorrebbe fare, secondo esperienze già fatte negli Stati Uniti per esempio, e anche indicare cosa si è disposti a fare, quindi alla fine creare una specie di borsa civica degli edifici inutilizzati che provi a incrociare. Daremo dettagli allora più avanti, perché mi sembra che al momento diciamo dettagli precisi non ne abbiamo, c'è già il sito, no? No, e sarà messo online nei prossimi. Ecco, ci lavoreremo e vi daremo una mano anche su questo. Però la domanda che le voglio fare è questa: nello Sblocca Italia c'è questa, dovrebbe esserci, è stato pubblicato ieri, adesso dateci il tempo di leggerlo. Sì, esatto. Era stata prevista una norma che consentiva incentivi fiscali, cioè pagare meno tasse, credo la TASI in particolare. Sì, la TARI, TASI oppure tassa di soggiorno, tassa. Esatto. A chi proprio si occupa di ridare vita in quella norma, credo si parlasse soprattutto di giardini, di arredi urbani e quindi un embrione di spazio, esatto, pubblico. Che ne pensa? Giusta strada? Insomma, per chi ha appoggiato l'articolo 118 ultimo comma della Costituzione sull'autonoma iniziativa dei cittadini, ovviamente è una norma che ci rende felici, anche se, come diceva, finora se ne parla ma non abbiamo ancora letto il testo definitivo. Speriamo che questa cosa venga estesa magari ancora di più, perché lì si parlava appunto di giardini e di arredi urbani, cioè cittadini che curano l'aiuola piuttosto che il parco o il piccolo orto di fronte al negozio. Bisognerebbe passare, fare uno scatto in più e garantire incentivi fiscali proprio a chi si mette a lavorare anche nell'edilizia abbandonata e fa dei progetti. Io intanto ringrazio Annalisa Mandorino, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva. Come detto, ci risentiremo nelle prossime settimane. Grazie, intanto complimenti per questa iniziativa e a presto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, cari ascoltatori, oggi vi vogliamo però anche su questo tema. La settimana europea della mobilità sostenibile si apre martedì prossimo, 16 settembre, quindi un modo per parlare, per fare iniziative sulla mobilità sostenibile, auto elettriche, car sharing, bike sharing, mezzi pubblici, ma bicicletta soprattutto. Noi siamo dei grandi fautori, sostenitori, però oggi vi chiediamo, facciamo un po' il pelo e il contropelo ai ciclisti, perché anche i ciclisti devono, per migliorare la convivenza col resto, diciamo, dei mezzi che stanno sulla strada, migliorare un po' alcuni comportamenti. Che cosa non si deve assolutamente fare quando si è in strada sulle due ruote? Per esempio andare uno a fianco all'altro, andare senza luci, oppure andare sul marciapiede. Ce ne sono molti ciclisti che hanno questi comportamenti, fanno arrabbiare pedoni e automobilisti e la convivenza diventa più difficile. Quindi oggi piccolo sfogatoio sulla bicicletta. 800 24 00 24. E il racconto più bello, mettiamo in palio anche oggi i biglietti per la mostra, come ho già detto prima, e specificherò più avanti. Franco da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, io volevo solo fare un'osservazione. Sì. Esiste un dato statistico che ci dice quanti dei ciclisti in circolazione rispettano le disposizioni del codice della strada? Voglio dire, luce anteriore, luce posteriore, catarifrangenti. Io non credo, perché per la mia esperienza, poi Firenze è una città particolare, le strade strette, la viabilità è un po' difficoltosa. Io mi trovo continuamente gente che passa sulle strisce pedalando regolarmente, mentre per disposizione del codice andrebbe condotta a mano la bicicletta. Sì. Girano contro mano di sera senza luci, per cui io sono in scooter o in macchina in una strada a senso unico, mi trovo a un incrocio con una strada a senso unico in direzione opposta, mi viene improvvisamente di fronte una bicicletta senza nessuna luce, senza niente. È vero, infatti è proprio per questo che noi oggi abbiamo aperto questo capitolo. Qual è, Franco, ci dica, però deve fare una scelta, il comportamento peggiore, andare sulla bici pedalando sulle strisce pedonali oppure andare contromano, come ha detto prima? Per me contromano è pericolosissimo per loro stessi, ma anche per gli altri. Va bene, va bene. Quindi Franco da Firenze si candida segnalandoci il fatto che le bici vanno spesso e volentieri anche dove non si dovrebbe, contromano, e magari anche senza luci di sera, e questo in effetti è un piccolo problemino, insomma, per usare un eufemismo. Vito dalla provincia di Bari, buonasera. Buongiorno. Si fa per dire. Sì. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire per quanto riguarda la spendere più, no? Sì. Il problema della sanità, nel senso che il nostro Renzi vuole risparmiare sulla sanità. Io volevo fare solo un appunto, non so se lui ne è a corrente. Nella Puglia, io sono un operatore del 118, un infermiere in particolare, no? In Puglia le associazioni del 118 sono delle onlus e esistono tutte le postazioni del 118. Praticamente loro forniscono le ambulanze al sistema 118. Ogni ambulanza percepisce in media 15.000 euro per ogni postazione. Io, siccome sono la provincia di Taranto, più o meno sono 50 postazioni. Comprando un'ambulanza costa 60.000 euro, 60-70.000 euro. L'ambulanza ovviamente non è che dura un anno, dura almeno 3 anni per legge, da 3 anni a 150.000 chilometri. Se facciamo due conti, vediamo un po' quanto si può risparmiare solamente acquistando le ambulanze e non dandole a queste onlus, tra virgolette dico onlus, perché in realtà non sono delle onlus, sono delle società fatte proprio a scopo di lucro, se vogliamo essere chiari. No, solo questo, niente. Va bene, Vito, grazie anche a lei. Abbiamo toccato in rassegna stampa il tema del scontro tra le regioni e il governo sulla sanità. Ne parleremo tra poco con il governatore della Toscana, Rossi. Adesso però salutiamo l'assessore all'istruzione del comune di Mezzago, siamo in provincia di Monza, Brianza, Claudio Dozio. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Oh, eccoci qua, perché insomma adesso si riniziano le scuole, riaprono le scuole, naturalmente c'è discussione, c'è attesa, il governo dice che bisogna puntare sulla scuola, poi però ogni anno i singoli istituti fanno i conti con le difficoltà, con quello che manca, con quello che c'è, con quello che non c'è. Lei ha avuto un'iniziativa ironica, che però insomma qualcuno ha preso sul serio, qualche giornale l'ha ripresa. Un decalogo rivolto agli studenti, un decalogo ironico, nel quale però lei invita, assessore, insomma, a prendersi cura anche della scuola, perché se no è inutile poi chiedere al governo, al comune, di intervenire e fare le cose, e poi ogni anno va tutto a pezzi, perché i ragazzi con un po' di esuberanza a volte sono un po' intemperanti, come dire. Certo, ha assolutamente ragione. Il problema appunto della scuola è che in realtà i fondi andrebbero destinati alle attività didattiche, a favorire progetti o diciamo corsi molto intriganti per i ragazzi, quindi spostarsi un po' dall'insegnamento molto classico a una cosa che possa trascinare davvero l'interesse dei ragazzi, mentre ahimè chi come me si occupa appunto della gestione dal punto di vista comunale si scontra tutti gli anni, quindi anche tutti i giorni, con la distruzione delle suppellettili. Ci faccia qualche, esatto, qualche esempio, anche partendo da questo suo decalogo che riguarda porte, luci, acqua, finestre, lavagne e quant'altro. Beh, praticamente nella cronaca di tutti i giorni succede che si sentono di scuole allagate perché vengono lasciati aperti i rubinetti. Quindi ragazzi, chiudete il rubinetto, prima norma. Esattamente. Poi le luci che vengono spesso dimenticate accese fino al giorno dopo o addirittura nel weekend, quindi 2 o 3 giorni. Spegnete le luci perché sennò la bolletta è troppo alta. E ancora cos'altro? E poi c'è, diciamo, l'utilizzo quotidiano, quindi le sedie, come dico nel decalogo, andrebbero usate con le natiche e non con le scarpe o altri o altre parti del corpo, perché poi davvero tutto è nato da una sorta di battuta fatta con il sindaco di Mezzago. Però è una cosa seria, lei ha ragione, caro assessore Dozio di Mezzago, perché ragazzi, pensateci a questo, gli interventi per la scuola, l'edilizia, la manutenzione, è giusto invocarli, però anche voi abbiate cura delle vostre scuole, se no va tutto in malora. 800 24 0024, questa è l'iniziativa scherzosa, ironica, da Mezzago. Si può fare cronache da un paese migliore. Stars, Coldplay, continuate a segnalarci, cari ascoltatori, la vostra canzone, la vostra, il vostro si può fare in musica, e così le manderemo in onda ogni sabato e ogni domenica a quest'ora. 800 24 00 24, ma anche sui nostri social, @ si può fare 24, il nostro account su Twitter, si può fare @radio24, invece su Facebook. Abbiamo Enrico che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo intervenire semplicemente per il discorso che state facendo sulle biciclette. Sì. E io mi sento a caponare la pelle quando sento certe persone come in precedenza che dice che ha fatto una curva, si è trovato il ciclista contro mano, e sono d'accordo con lui che è una cosa pericolosa. Ma invece di parlare di pelo e contropelo e ciclisti, vediamo un attimino di che cosa si tratta il discorso. Io sono un automobilista, sono un motociclista e sono anche un ciclista. Mi reco tutti i giorni fuori Milano, per una decina di chilometri, e nel centro di Milano, per cui ho una certa visione da anni, molti anni, io ne ho quasi 70. E quindi? Comunque, dicevo appunto che andiamo ad analizzare perché magari certi ciclisti sui marciapiedi o magari viaggiano anche in contromano, perché è pericolosissimo viaggiare nella direzione giusta, che prevede il codice della strada, perché ci sono i furgoni che ti sorpassano a 20 centimetri dalla chiesa. Quindi lei Enrico dà un'interpretazione interessante, cioè sì, i ciclisti vanno contromano per non andare nella direzione giusta perché è pericoloso, ti mettono sotto, questo è quello che dice lei. Però guardi, voglio chiarire una cosa, io ho detto così di fare pelo e contropelo ai ciclisti, non perché ce l'ho con i ciclisti, figuriamoci, vado in bicicletta anch'io. Anzi, il programma è molto molto amico, sostenitore, fautore delle due ruote, della bicicletta. Ho detto così per stimolare un po' la discussione, perché è vero che a volte anche i ciclisti, come tutte le categorie, diciamo, sulla strada, no, non hanno comportamenti sempre molto corretti, e questo poi scatena le reazioni anche degli automobilisti o dei pedoni. Quindi dico, per una volta diteci cosa non si deve fare secondo voi in bici. Secondo lei cosa veramente non bisogna fare in bici, visto che lei è anche un ciclista? Allora, non bisogna andare contro quelle che sono le regole della comune convivenza, questo vale per tutti, per i ciclisti, per i motociclisti e per le automobili. Ma una cosa in particolare non ce la vuol dire, Enrico? Certo, vale anche per le automobili. In particolare ci vorrebbe semplicemente una cosa semplice che penso tutti vorremmo, che i vigili uscissero dai loro uffici e andassero in giro a fare il loro mestiere. Va bene, lei invoca, Enrico, i vigili per strada, ha ragione. Va bene, grazie, diamo spazio anche agli altri. Maria dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo dire una cosa sulla sanità. Si parla di risparmi, e perché non si risparmia anche sui medici di base? Loro perché vengono pagati in base al numero dei mutuati. Sì. Perché non invece sulle visite vere effettuate? Io per mia fortuna vado poco dal medico, per mia fortuna. Male, sì. Però scusi lui Maria, viene lei, pagato scusi lo Maria, stesso. Lei individua questa possibilità diciamo, di risparmio sul medico di base che dovrebbe essere pagato a visita anziché a numero di pazienti. Magari che viene fatta una media e non, medici di base non si arricchiscono, credo, particolarmente. Ma io credo proprio che si arricchiscano, credo. Non credo proprio, Maria, credo che lei si sbagli. Credo che invece da avere letto spesso che i medici di base sono considerati uno dei vanti dell'Italia, perché fanno la prevenzione. Maria, stia attenta. Sì. Poi ovviamente lì, va da casa a casa, da persona a persona, però se ci fosse il pagamento in base alle visite avrebbero più cura dell'assistito, cosa che invece lasciamo perdere, perché a volte dicono adesso basta, ora è finito l'ambulatorio, me ne vado, eccetera. Vabbè, se ci sono dei medici di base che lei conosce che fanno altri lavori e, diciamo, fuori dall'orario e in quel modo si arricchiscono, forse ha ragione lei, però non credo che siano quelli il problema della sanità italiana, eh? Maria, grazie comunque. Maurizio da Taranto, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Buongiorno. Io, perdonami, ma ho solo avuto modo di sentire un primo dei tuoi ospiti in diretta, e avevo piacere, così, insomma, non dico a sostenere una tesi contraria, però insomma poter fare sentire la voce dei ciclisti. Sono ovviamente un ciclista e devo dire, per quello che mi è dato di verificare direttamente sulla strada, molto spesso io constato esattamente il contrario, cioè che esiste una grande disattenzione da parte degli automobilisti nei nostri confronti, nel senso che per loro, anche in relazione, ritengo, alla velocità che possiamo sostenere, quindi ad essere comunque un ostacolo alla loro normale viabilità stradale. Sì. Però Maurizio, io capisco, è vero, perché chiaramente visto dagli occhi del ciclista è così come dice lei, però per una volta noi volevamo proporre il discorso contrario, cioè anche chi è un ciclista onesto intellettualmente sa che ci sono dei comportamenti che spesso vengono fatti sbagliati e che forse sarebbe meglio evitare, no? Per favorire questa convivenza che tanto comunque ci deve essere. Certamente il pericolo non nasce dalle biciclette, ma nasce dalle automobili, che sono più pericolose, è ovvio, o dai camion, eccetera eccetera, però insomma anche i ciclisti forse ci possono mettere del loro, eh? Questo era un po' il senso stamattina della provocazione. Maurizio, non so se è ancora in linea. No, non c'è più. Ci sono ancora. C'è una cosa ancora, secondo lei, che il ciclista, visto che lei è ciclista, non deve fare? Sì. Mai? Posso sicuramente sostenere che in tutte le circostanze nelle quali vado in giro con altri amici ciclisti, insomma, noi cerchiamo, io sicuramente in prima persona cerco sempre di sensibilizzare, mi invito a non occupare la carreggiata affiancandosi, ma a sostenere la posizione in linea, e questo posso garantirti che è un principio che sosteniamo. Ma non è una questione personale, Maurizio, sì, no? Certo, non è una, esatto, è proprio questo, anche proprio per l'incolumità stessa dei ciclisti. Grazie intanto, Maurizio da Taranto. Non è una questione personale, ognuno si comporta come crede, però è giusto anche mettere in luce quelli che sono i comportamenti sbagliati. Maurizio da Taranto ci segnala: non procedere affiancati, i ciclisti affiancati lungo la strada. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E salutiamo, diamo il buongiorno a Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, ci sono state rassicurazioni da parte del Ministro della Salute, ma anche del Presidente del Consiglio Renzi, sul tema che sta molto a cuore alle regioni, ma anche ai cittadini. Naturalmente non vogliamo tagli alla sanità pubblica, però dice Renzi, tagli non ce ne saranno, ma risparmi devono esserci. Un tema annoso, Rossi. Intanto le chiedo se, visto che ieri ancora eravate sul piede di guerra, se queste rassicurazioni, diciamo, di Renzi e della Lorenzin bastano per far rientrare la vostra protesta o no? Ma diciamo sono un passo avanti, se interpreto bene. La lotta agli sprechi, i costi standard di riferimento per non spendere troppo, magari nell'acquisto di determinate cose non avere variazioni eccessive, una certa variazione. Ho letto un articolo di Rizzo che dice... Sì, l'ho letto anche io in rassegna stampa, ecco, stamattina. No, ma non è così semplice tutto questo, perché poi ci sono i medici che hanno il loro diritto anche di scegliere, ci sono i cittadini che sono abituati con certe pratiche, cambiare. La sanità non è come comprare al supermercato le bottiglie d'acqua minerale, ecco, e anche su questo ci sono, come ovvio, preferenze diverse. Però certi costi standard ci vogliono, la lotta agli sprechi va fatta, le possibilità di recupero sono ancora importanti. Il punto è che se noi ci prefiggiamo, come mi pare grosso modo viene anche come indicazione dal governo, il recupero di un 1% sui costi ogni anno, sanità ha già dato molto al risanamento dello Stato, l'ha riconosciuto anche la Corte dei Conti, la discussione da farsi è se questo recupero dell'1% di spending review, chiamiamola così, deve servire o no agli investimenti, deve servire anche a rispondere a nuovi bisogni. Capisco che siamo in una situazione di difficoltà, però sì. Cioè lei dice non è, cioè i risparmi bisogna capire poi dove vanno destinati. Appunto, io penso che sarebbe bello investirli in sanità, perché la sanità è anche un settore anticiclico, è uno di quei settori che tirano, possono produrre anche nel privato una buona occupazione. Però capisco la sua posizione, però è vero anche che il governo poi è tutto sommato libero di decidere dove investire i risparmi ottenuti anche dalla sanità, perché è fiscalità generale. Noi oggi però abbiamo un patto con il governo firmato poco tempo fa e facciamo conto su quelle risorse. Il governo ha tagliato tutto l'articolo 20 sugli investimenti. Vedo che Renzi batte i pugni sul tavolino all'Unione Europea per parlare di investimenti, perché questi servono per la ripresa. Allora io dico, bene, ci obblighi a fare dei risparmi, non consideri uguali tutte le regioni, ci sono regioni che devono essere commissariate, io penso non solo i co-presidenti, ma anche probabilmente con un commissariamento esterno e governativo non avrei nulla da dire, e i risparmi che il governo ci indica di fare, che concerta con noi, si presta impegno a reinvestirli in sanità. Questo sarebbe un fatto allora anche di traino allo sviluppo, e non si penalizzerebbe la sanità e non si rimetterebbe in discussione anche un accordo fatto. Ma quindi lei nega che ci sia una quota in milioni o miliardi di euro che possa essere risparmiata tout court, cioè con questi costi standard, perché insomma la stessa Lorenzina aveva parlato inizialmente di 10 miliardi in 3 anni, 3 miliardi l'anno, anche ieri ha ribadito che non ci sarà taglio lineare, ma risparmio ci deve essere. Risparmio vuol dire che quei soldi vengono risparmiati e stop, perché sono sprecati, spesi male. La sanità è ferma da molto tempo, non ha aumento, addirittura è stato un comparto che è andato indietro negli ultimi 2 anni, è stato riconosciuto anche dalla Corte dei Conti che la sanità è uno dei settori che maggiormente ha contribuito al risanamento dello Stato. Quindi insomma, secondo lei non un euro dovrebbe uscire dalla sanità? Faccia dire quello che non ho detto, mi faccia argomentare. Nel 2012 e nel 2013 la Corte dei Conti ha riconosciuto, ho partecipato io stesso al convegno, che la sanità ha dato un contributo fondamentale al risanamento dello Stato. Sì. In Italia si spende ancora meno rispetto alla Germania, rispetto alla Francia, siamo nella media, il nostro spread su questo tema è perfettamente allineato con la migliore Europa, sia dal punto di vista della spesa e anche dal punto di vista della qualità, perché la nostra è una sanità ancora competitiva. Certo, certo. Lo stesso articolo di Rizzo lo riconosceva, Rossi? Appunto, lo riconosceva, anche se loro spendono molto più di noi. Senta, però allora, ecco, io sono ragionevole, sono d'accordo che si possa aprire un tavolo con il governo, parliamone, teniamo presente che se blocchiamo lottiamo contro gli sprechi, ma se blocchiamo gli investimenti in sanità non facciamo un bene né alla sanità e nemmeno alla ripresa del paese. Poi se si deve fare un sacrificio perché il governo ulteriormente ha bisogno, perché nessuno, siamo patriottici e siamo più che il governo, credo che sia lo Stato italiano e i cittadini. Senta, che ci sia, comunque lei non nega che ci siano dei risparmi che possono arrivare dai costi standard, che però l'inizio dell'applicazione sembra che sia un po' deludente. Tra l'altro che ci possano essere dei risparmi, il cittadino medio lo percepisce. Lei stesso è coinvolto in un'inchiesta, no? Per un buco in una ASL di Massa Carrara di quanti? 300 milioni di euro, credo. Il buco noi l'abbiamo scoperto facendo la certificazione del bilancio in sanità. Unico caso, l'abbiamo fatto in Regione Toscana. È stato lei a sollevare questa questione, però. Sono stato io che ho scoperto questo buco, sono andato a denunciarlo. Il fellone delinquente che camuffava i bilanci e restare al suo posto, dalla galera mi ha chiamato in causa e ho ricevuto ovviamente un avviso di garanzia. La procura di Massa ha ritenuto di fare un'indagine su tutte le ASL della regione, sì, e il generale Vicanolo, prima di essere trasferito, ha detto che dalle sue verifiche su tutti i bilanci delle ASL della Toscana il caso di Massa è un caso a parte, è un caso unico. Quindi noi abbiamo i bilanci certificati su tutte le aziende sanitarie, e lei sa che le aziende certificano i bilanci quando vogliono più sicurezza sui loro bilanci. Noi l'abbiamo fatto in Toscana, le altre regioni non l'hanno fatto. In più abbiamo avuto le visite di tutte le guardie di finanza su tutte le aziende sanitarie. Temo che se si facesse lo stesso per il resto del paese, Renzi dovrebbe cercare non 20 ma forse qualche miliardo in più. Senta Rossi, però il nostro è un programma che cerca sempre la buona notizia, l'ottimismo non ottuso, speriamo, ma insomma un po' di aria fresca, sì. Allora, c'è una notizia che sembrerebbe buona, riguarda Piombino e tutta la logistica, il porto e soprattutto insomma le acciaierie. L'offerta degli indiani della Jindal, credo che si chiami così, che fa passi avanti, ce lo conferma? Sì, passi avanti, e poi come sempre bisogna guardare il passo avanti e quello che resta ancora da fare. Ma noi in poco tempo, con un impegno della Regione e dello Stato, abbiamo messo Piombino in condizioni di poter riattivare una siderurgia competitiva. Prima c'era un altoforno che mangiava soldi, adesso con il porto nuovo, con le bonifiche, con gli supporti che stiamo dando anche all'economia, avvalendosi della finanza europea, dei fondi comunitari e di altri fondi della coesione sociale e anche per lo sviluppo, insomma ci sono le condizioni perché un investitore venga e sia attratto. Quindi lei non scommette ancora sugli indiani, o sì? No, gli indiani hanno presentato una proposta vincolante. Credo che la proposta non dovrebbe limitarsi a dire riattiviamo i laminatoi con acciaio che proviene dall'India, perché gli stessi indiani mi dicono che questo non può essere la soluzione, in quanto non rientrerebbero poi alla lunga nei costi, ma la proposta deve specificarsi su come si riapre l'area a caldo, cioè su come riusciamo a ridar vita alla produzione dell'acciaio a Piombino attraverso un nuovo impianto. Su questo c'è un impegno verbale a parole da parte degli indiani, da parte di Jindal, che io la riconosco come una persona seria, affidabile, stimabilissima, però vorrei che dall'impegno a parole, dall'impegno ad effettuare... Ho capito, si passasse poi anche... Si passasse a capire davvero meglio. Ma non è che la vicenda, mi scusi, si intreccia anche con l'Ilva, perché loro sono anche loro nella shortlist, cioè se passasse anche l'operazione Ilva, allora forse parliamo di Fanta Acciaieria, non lo so, però a quel punto potrebbero produrre l'acciaio lì e sfruttare Piombino per la lavorazione, non lo so. Lei non fa un... credo troppo Fanta, purtroppo è un rischio che sento anch'io, e su questo allora non saremmo d'accordo. Però scusi, non sarebbe comunque un passo in avanti per Piombino, oppure di fronte a questo voi direste no? Della città di Piombino e della siderurgia a Piombino. E mi ricordo che c'era stato anche da parte di qualche imprenditore italiano l'idea di dar vita ad un forno elettrico. Sì. Almeno un forno elettrico per produrre acciaio a Piombino e per garantire anche un minimo di occupazione, garantire anche una storia industriale forte, importante. Senta, ma non sarebbe... Ha tirato fuori Taranto, con tutto il rispetto per quella disgraziata realtà e tutti i problemi che ha. Riaprire un forno per la produzione dell'acciaio a Piombino, mi creda, è molto più facile che non riaprire un forno a Taranto. Quindi senta, la valutazione la metterei nel conto, non entro nel merito, ma insomma a Piombino domani avrebbe gli applausi del popolo, del comune, delle istituzioni toscane. Quindi diciamo meno problemi di quelli che ci potrebbero essere, ci sono stati a Taranto. Problemi ambientali e problemi anche di altro tipo come quelli che ci sono a Taranto. In generale però, Rossi, scusi, una cosa, un'ultimissima cosa su Piombino. Avere gli indiani lì non sarebbe una menomazione della sovranità, una diminuzione della nostra capacità strategica, secondo lei? Dalle mie parti si dice non il matto alla sassata. Diciamo che il capitalismo italiano su sulla vicenda della siderurgia, insomma, non ha fatto proprio una figura di alto profilo. Quindi dice meglio gli indiani che nulla. Però non ho capito il detto toscano, Rossi, non ho capito. No, dice non inviti il matto alla sassata, nel senso... Non mi faccia dire sì. con troppa forza cosa che qualche volta mi rode in cuore, nel senso che la parabola purtroppo delle privatizzazioni, della siderurgia e dell'impegno dell'imprenditoria del capitalismo italiano in questo settore è stata complessivamente deludente. Poi io non voglio mettere nessuno sul banco degli imputati, ognuno avrà avuto le sue buone ragioni. Così, quindi a questo punto lei dice meglio gli indiani degli imprenditori italiani che non sono stati all'altezza, ecco. Vabbè, che devo dire, se ci fossero stati imprenditori italiani all'altezza io credo che ci comprendiamo meglio e sarebbe stata ancora più positiva la cosa. Però a questo punto... Io ho trovato comunque un imprenditore indiano sulle cui parole credo, perché mi pare una persona assolutamente affidabile, appunto. Va bene. E questa persona si è alzata dall'incontro che ho avuto dicendo: sono convinto anch'io che dobbiamo fare di Piombino il polo competitivo per la produzione dell'acciaio, il più competitivo in Europa. Insomma, io voglio credere in queste parole, ovviamente credo, ma voglio vedere anche i fatti, voglio vedere le carte. E va bene, c'è tempo, insomma, speriamo, in bocca al lupo, incrociamo le dita, grazie intanto Presidente Rossi, buona sabato, a presto, arrivederci. Sentirsi come Papa senza santi da pregare, si può fare. Eccoci qua, 800 24 00 24, in attesa delle vostre chiamate e anche dei vostri suggerimenti su che cosa non si deve assolutamente fare in bicicletta sulle nostre strade. Oggi noi un programma sempre molto amico, fiancheggiatore dei ciclisti, però in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile vogliamo però anche fare così un po' le pulci ai comportamenti a volte non troppo come dire, corretti dei ciclisti. Riccardo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Il comportamento che vorrei mettere in evidenza è quello di quanti vanno in bicicletta e ascoltano la musica con le cuffiette e quindi si isolano completamente dai rumori che gli stanno intorno e che potrebbero anche comportare un pericolo. Quindi no cuffie. Assolutamente no, o almeno una sola. Si perde l'effetto stereo, ma almeno si salva la pellaccia. Cosa che vale anche per gli automobilisti, vale per tutti, ma vale anche giustamente per i ciclisti. Grazie Riccardo. Buona giornata. Ti inseriamo tra i partecipanti, mettiamo in palio anche oggi il racconto più, diciamo, la suggerimento più originale o comunque che decidiamo di premiare. Vince un biglietto per la mostra Stesis Villa Panza a Varese. Gian Giacomo da Viterbo, buongiorno. Ciao. Sono il cosiddetto ciclista indisciplinato. Ti sentiamo maluccio, Gian Giacomo, pronto? Non lo sentiamo, Gian Giacomo, riproviamo, se no facciamo più tardi. Sentiamo se funziona, prego. No, non funziona, non lo sentiamo. Allora niente, ascoltatori, di nuovo tra poco, 800 24 00 24. Mamma Gattesi. Buongiorno Andrea Segre. Andrea, buongiorno. Ti piace questa scelta musicale? Il piccolo Lucio è un neomelodico, un bambino napoletano neomelodico, grassottello, è abbastanza inquietante, devo dire, a vedersi. E che canta questo tormentone? A me piace la Nutella. Siamo partiti così, perché parliamo di educazione alimentare naturalmente con te, presidente della Last Market e nonché direttore del Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna. Perché insomma c'era questa promessa del ministro Martina, del precedente ministro dell'Ambiente Orlando, che ha lanciato poi il piano contro gli sprechi alimentari e non solo eccetera, di inserire l'educazione alimentare come materia scolastica. Però adesso questa cosa sembra che si sia fermata. Ma in realtà, certo, guardando il piano scuola, i 12 punti, quello che il governo ha presentato, ancora sembra una forma di, insomma, di bozza da integrare evidentemente, perché, e mi pare ci sia il tempo, e certamente le proposte ci sono. Sì. L'educazione alimentare è fondamentale perché noi partiamo dallo spreco, come sai, e si spreca, si getta via tanto cibo perché non lo consideriamo, certo, più un valore, perché non consideriamo più come valore, l'abbiamo perso, bisogna che torniamo in qualche modo a educarci, a partire direi forse dai corsi prematrimoniali, per non dire dalle materne, perché i dati sono davvero inquietanti. Cioè prima della nascita addirittura. Beh, io penso di sì, perché veramente quando andiamo a vedere lungo la filiera dove si spreca, uno pensa, oddio, i supermercati, gli agricoltori, ma in realtà il grosso davvero sta in casa nostra, insomma è mezzo punto di PIL, se credete ai nostri dati. Sì. Eppure leggendo appunto il piano scuola c'è un riferimento all'obesità, e questa canzone effettivamente dà qualche motivazione di preoccupazione, perché ci sono dei dati sulle obesità in età scolare pazzeschi, e il rimedio è giusto peraltro l'educazione fisica. Ecco, però a monte, assieme all'educazione fisica fondamentale, è la conoscenza di ciò che mangiamo, del valore nutrizionale degli alimenti, del rapporto, sì, fra cibo e salute e quindi anche spesa sanitaria, fra cibo e ambiente, inquinamento, perché produrre male e poi sprecare significa produrre rifiuti. E l'appello è pronto, nel senso che nel piano di prevenzione sprechi alimentari, che peraltro abbiamo presentato col ministro Galletti il 5 giugno di quest'anno, giornata, sì, mondiale dell'ambiente, ma a caso il primo punto è l'inserimento dell'educazione alimentare e dell'educazione ambientale nei programmi scolastici. Non so se come materia monografica, se trasversale, e chiaramente il livello sarà diverso in funzione se vai alle elementari piuttosto che alle medie o ai licei. Sì. Ecco. Questo è un punto naturalmente poi da chiarire. Devo dire che naturalmente noi nel nostro piccolo, come programma Si Può Fare, Radio 24, siamo assolutamente sostenitori di questa cosa. Bisogna fare, come si dice, sistema, perché è inutile fare gli orti nelle scuole e parlare molto delle questioni del cibo, poi magari nelle mense scolastiche si mangia male e non si fa educazione alimentare nelle scuole come invece promesso. Quindi assolutamente un passo in avanti in questa direzione, un'ora magari alla settimana, non è che vogliamo togliere spazio a italiano, matematica, inglese, per l'amor del cielo, perché poi la scuola deve fare già tante altre cose. Cosa fossi tu l'insegnante di questa ora, magari, ai bambini di educazione alimentare, che concetti useresti, cosa insegneresti, da cosa partiresti? Dai principi nutritivi del cibo penserei a cosa serve, cosa sono gli alimenti, magari giocando, facendo un diario alimentare e poi cercando di capire cos'è la frutta, cos'è la verdura, la carne, da dove, insomma il pollo non ce lo troviamo, per dire, soltanto in confezione, ma magari ha un suo percorso prima, il fatto che nella produzione agricola hai bisogno di usare la terra, l'acqua, l'energia, il lavoro, insomma c'è tanto da dire, è un po' come se fosse un capitolo, anzi diversi capitoli della nostra educazione civica, perché, certo, conosciamo un po' meglio l'ambiente, chi produce, l'impatto che questo ha, adesso non userei questo termine impatto, ma insomma l'effetto che fa mangiare sulla nostra salute, sul nostro portafoglio anche, e sulla salute del mondo, l'ambiente. I temi sono tanti, anch'io non saprei se dedicare un'ora oppure, però vedo che le, sì, famiglie e anche la scuola, gli insegnanti sono pronti, perché è pieno di progetti così un po' sporadici, anche creativi. Sì, creativi, però insomma ci vuole una regia, ci vuole un coordinamento, esatto, ci vuole continuità, altrimenti rischi appunto di rimanere tutto un po' a spot. Allora, poniamoci un obiettivo, il prossimo anno 2015 è l'anno di Expo, ecco, vero? Ecco, esatto. Pianeta, energia per la vita, ecco, facciamo in modo che il primo settembre, adesso sarà un po' più avanti, dipende dalla regione, nei programmi scolastici ci sia davvero questo tema trattato in modo diciamo ufficiale. Chi è il più riottoso tra i ministri? Martina credo sia molto convinto, Galletti hai detto tu, la Giannini, chi è che secondo te è quello che bisogna convincere, spingerlo di no, più? No, secondo me sono tutti convinti, adesso io penso che il piano scuola, che ha questo diciamo approccio partecipativo, sì, possa raccogliere questa cosa. Contributi, nessuno credo sia davvero contro, e quindi ecco, bisogna bisogna dare forza e continuità a questa cosa su cui credono tutti, almeno a parole, però poi forza ragazzi, non stiamo lì con le mani in mano, facciamolo questo passo, credo che davvero nessuno possa essere veramente contrario. Quindi che tempo ci diamo? Inizio 2015? Sì, io credo che adesso in questi due mesi ecco bisogna fare delle proposte e poi seguire, insomma, continuare a parlarne in modo che ecco il tema non si sgonfi. Del resto, appunto, maggio prossimo anno Expo, quindi parleremo per sei mesi solo di cibo. E che diamine, Allora a un certo punto dobbiamo essere pronti con l'inizio del prossimo anno scolastico, questo in fondo non è ancora iniziato, almeno Bologna inizia dopodomani, siamo pronti per quella data, dobbiamo esserlo. Ti dico una cosa però, prepariamoci, perché quest'anno doveva partire l'insegnamento di una materia in inglese, almeno nei licei, in lingua inglese, di una materia, non la lingua, ma la geografia, piuttosto che la storia dell'arte, e non, in quattro anni di sperimentazione poi non si sono trovati i fondi per farlo, e quindi prepariamoci, perché anche qualora dovesse passare la norma, poi ci sarà da scontrarsi con i fondi, con la dura realtà. Io non vorrei deprimerti, Andrea, è sabato. No, però è difficile che tu mi riesca a deprimere. Bravo, no, e noi sicuramente lavoriamo per non deprimerci. Però grazie, in bocca al lupo e ci sentiamo presto. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Parlare con il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, andiamo con Giorgio che ci chiama da Modena. Buongiorno Giorgio. Buongiorno, vi chiamo da Roma però. Ma avevano scritto Modena e invece era Roma. Benissimo, Giorgio era da Roma. Roma sì. Bene, meglio anche. Sì, così. Volevo raccontarvi questa avventura. Io sono proprietario insieme alla mia socia di una libreria indipendente di Roma. Sì. Una libreria che incredibilmente funziona. E abbiamo deciso di fare sistema e di inventarci qualcosa di assolutamente nuovo. In estate abbiamo cominciato a portare i nostri clienti in montagna a liberare poesie, il tutto assolutamente in modo gratuito. Arriviamo e come ce li portate? Ce li portiamo e facciamo loro da guide, gli prepariamo il percorso, arriviamo lì e condividiamo quelle che sono le spese di trasporto. E poi arrivati in cima al monte leggiamo poesie, ognuno porta la sua nello zaino e le liberiamo, le leggiamo ad alta voce. Bello, abbiamo replicato la stessa cosa, la stessa iniziativa per quanto riguarda la bicicletta. E portiamo quindi veniamo anche al tema diciamo che abbiamo lanciato noi in trasmissione della bicicletta, quindi esattamente, quindi facciamo vedere Roma da una prospettiva inedita alla nostra clientela, ci riserviamo un vagone della metropolitana, il primo vagone grazie all'ausilio dell'ATAC, facciamo un percorso all'interno della città e di fronte a monumenti particolarmente significativi leggiamo un brano di un autore famoso che riguarda quel monumento o quella curiosità. Vabbè, insomma, complimenti per questa iniziativa. Veramente. Sì, se vuoi lasciare un contatto per qualcuno di Roma che sia interessato, vai, facciamo un momento certo. Pro loco, vai. Benissimo, allora www.libreriaarcadia con una sola al centro, .com. Fantastico, libreriaarcadia con una sola .com. Grazie Giorgio da Roma e complimenti per l'iniziativa. Raffaele, questa salve. Volta sì da Modena credo. Sì. Salve, buongiorno. Sono Raffaele, Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Raffaele da Modena, sì, ora sono io da Modena, anche se di origini pugliesi. Allora, vorrei intervenire circa la telefonata poc'anzi della signora Maria circa sì. l'arricchimento dei medici. Non secondo me medico. Si sbagliava, io l'ho detto perché non credo che sia quello. No, ma è giusto perché è bene che la gente sì. anche sappia di quale fortuna abbiamo noi in Italia per quanto riguarda la sanità pubblica. Perché e purtroppo sono d'accordo. La stiamo un po' rovinando ed è uno dei nostri vanti all'estero. Sì, è vero. Io volevo solo far capire un po' alla gente cosa guadagna un medico. Io non sono medico. Allora, un pediatra, 800 massimalista, può raggiungere 800 assistiti. Sì. Con 7,5 euro mese per assistito. Totale? Lordi, beh, basta fare un calcolo, non so, circa 5-6 mila euro. Lordi. Sì. In questi lordi vengono detratti il 20% direttamente dall'ASL. Attenzione, è un contratto da libero professionista, quindi non si ha diritto né a ferie né a malattia. Bisogna garantire, quindi in caso di malattia ci si paga il sostituto, che è un libero professionista in quel caso. Insomma, quindi il netto no, quant'è, Raffaele? Bisogna calcolare, bisogna vedere quanto paga uno di affitto dello studio, pulizie, no, beh, segretaria. Sì, sì. Quindi bisogna capire che con 7,50 euro mese per assistito cosa uno invece riceve. Io ho intenzione di fare un libro circa le richieste delle mamme. Perché sì. se uno può avere un vabbè, ma adesso che c'entra Raffaele? No, perché è importante, perché il servizio migliora in base alle richieste del paziente. Va bene. Raffaele, in bocca al lupo per il libro e grazie per queste specifiche sui costi, i guadagni dei medici di base italiani. Abbiamo ancora il tempo per un ascoltatore veloce. Sì, Gino da Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, volevo appunto ribadire il concetto. Io sono un ex ciclista e ho smesso di andare in bicicletta. Sembra che lei sia un ex alcolista. Come mai ha smesso? Non è una cosa brutta di cui disintossicarsi. Ma senta, andare in bicicletta è bellissimo, però da noi è diventato molto pericoloso perché sì. purtroppo i colleghi ciclisti a quali faccio appello viaggiano in branco e quando dico in branco 4-5 alle volte per corsia. Quindi anche lei si unisce al discorso che ha fatto l'altro ascoltatore su non andare a fianco, questa era Maurizio da Taranto, uno all'altro. Secondo me sarebbe molto semplice se la polizia fermasse i ciclisti e li bloccasse la bicicletta, perché tante volte si viaggia senza documenti né niente. Sì. E allo stesso tempo abbiamo dei camionisti che a spregio o anche automobilisti passano velocissimi a 20 centimetri, 15 centimetri dai ciclisti. Quindi è diventato una guerra tra ciclisti e automobilisti, cosa che dovrebbe essere gestita dalle forze dell'ordine. Che va bene, Gino, grazie. Io lo dico perché lo vedo all'estero. Cosa vede? Abbiamo dei camion che mettono la freccia 100 metri dietro al ciclista, poi passano lontanissimi sì. e i ciclisti in fila indiana. Va bene, grazie Gino. Allora, adesso poi diciamo anche chi ha vinto, prima di chiudere i nostri biglietti per la mostra del FAI a Villa Panza, abbiamo un piccolo ballottaggio. Intanto però abbiamo anche Carlo Giuseppe Gabardini, ho detto anche Giuseppe oggi, così Carlo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Alessio. Che piacere risentire la tua voce uscire dai microfoni di Radio 24. Io sono stato emozionato e felicissimo perché mi siete mancati moltissimo in tutta questa estate. E tu sei mancato a noi, basta, momento così, a marcord tra di noi. Vabbè, abbiamo fatto esatto. un si può fare estivo senza Carlo, che comunque aveva anche degli altri impegni e un po' anche di vacanza, era giusta farla. Carlo, adesso invece sei alla Blogfest di Rimini, motivo per cui oggi non sei qui con noi, ma sarai qui con noi la settimana prossima. Era perfetto, sono appena passato da via Marcord, perché a Rimini hanno rinominato un sacco di vie con i nomi di film ed è incredibile, tipo ho visto che esiste una via che si chiama un'agenzia matrimoniale, mi sembra francamente troppo, però va bene. Che cos'è l'agenzia matrimoniale? È un film? È un film, sì. Ah, sì, mi mancava questo. Senti, comunque sono a Rimini, racconta. Alla Blogfest, che anzi in realtà Da quest'anno si chiama Festa della, della rete. Ero anche l'anno scorso qui alla Blockfest, infatti abbiamo fatto direi il nostro primo collegamento dopo il mio stage estivo dell'anno scorso. E dico questo perché ha dovuto cambiare nome in qualche modo, perché appunto tutti i giornalisti che facevano domande sulla Blockfest parlavano solamente di blogger, cioè continuavano a parlare di blogger. In realtà questa è la festa di tutta la rete, non solamente dei blogger, quindi anche di chi si esprime con YouTube, di chi twitta, di chi ha le pagine Facebook. Quindi non è solamente dei blogger, però voglio tranquillizzare tutti, non è che sono morti i blogger, è che i blogger diciamo, comunicano anche in altro modo, diciamo, e quindi si chiama Festa della rete, che insomma è diverso. Qualcuno io ricordo in realtà una festa della rete che era quando dalla chiesa si candidò sindaco di Milano, però era un'altra rete, era un'altra festa. Un'altra rete, ci fu anche poco da festeggiare, ma comunque. Senti Carlo, facciamo una cosa, intanto io dico una cosa, tu resta lì, dico che vincono i biglietti per la mostra del FAI di Varese, facciamo un ex equo tra Riccardo di Milano che dice no cuffie, ciclisti non mettetevi le cuffie perché dovete ascoltare il traffico e sentire qualche colpo di clacson, e anche Maurizio da Taranto che ha raccolto proseliti sul fatto che i ciclisti non devono procedere uno a fianco all'altro per la strada. Oggi in occasione della mobilità della settimana della mobilità sostenibile in Europa abbiamo voluto andare un po' contro tendenza e lanciare questo piccolo sfogatoio sui ciclisti, ma insomma noi restiamo amici della bicicletta, anche se qua di due io e Carlo ne abbiamo mezzo di ciclista, che sarei io, perché Carlo invece è uno scooterista, Beh, sono venuto in treno comunque a Rimini, quindi diciamo, vabbè, se facciamo la sostenibilità anche del treno ci sei. Guarda, la quota la salva Carmelo Loricella, regia, che è un super ciclista. Carlo, noi ci sentiamo forse domani per un breve aggiornamento sulla Blockfest, no? La prossima volta. Stasera ci sono le premiazioni del Macchia Nera Italian Award. Un abbraccione, siamo davvero in chiusura. Ciao, a domani cari ascoltatori, si può fare. Grazie a Giorgio De Luca, Andrea Piana. Ciao, a domani.